Radio 24 Reportage. Ombre sul Danubio, quelle voci che disturbano, di Gigi Donelli. Következnek a Klubrádió hírei. Két óra a Szegedi Egyetemen dolgozott az etiópiai merénylet két magyar áldozata. Teljesíteni akarja a magyar kormány az unió követeléseit, bár nem az érvek, hanem az erő előtt hajlik meg ezt a Bild címen. Boccoruzza al numero 3. Club Radio si trova facilmente a 100 metri dal teatro romano di Obuda, la vecchia Buda. Dopo avermi fatto visitare la radio, Ferenc Vishek, direttore dell'emittente, mi chiede di accompagnarlo ad un incontro che si tiene dall'altra parte di Budapest e allora mi racconta in auto, mentre seguiamo il corso del Danubio, perché Club Radio è diventata oggi un simbolo della libertà di espressione in Europa. Club Radio. Tények. Vélemények. Token News Radio, like you, and sorry, I'm driving during the discuss, and we are working for 10 years, and that's the simple opinion and news radio. Noi siamo una radio di parole, proprio come voi, una radio di informazione che dà spazio alle opinioni. Siamo in onda in tutto il paese da 10 anni e siamo una radio di dibattito. Praticamente ogni programma è aperto alle opinioni del pubblico e siamo aperti a tutte le idee che vengono discusse attraverso le nostre frequenze. La nostra è una radio nata per rispondere al bisogno di condividere, attraverso la radio, un dibattito sociale che si alimenta di un periodo storico molto delicato per il nostro paese. Un periodo che inizia di fatto con il passaggio del nostro paese dall'economia socialista a quella di mercato e che risale a poco più di 20 anni fa. Noi di Club Radio siamo nati poco più di 10 anni fa. Siamo nati con la volontà di dare vita a una radio indipendente ed opposizione, una radio commerciale che fa informazione e si sostiene grazie al mercato. But this radio is a typical public radio because that was Siamo dunque una radio privata che però sembra la classica radio pubblica, nel senso che svolge un servizio pubblico di informazione e che nasce proprio quando i partiti politici, 10 anni fa, occupano la radio nazionale di Stato togliendole quell'indipendenza che noi invece abbiamo deciso di conservare. 10 anni fa, era dunque il 2002, l'anno in cui per la prima volta sale al potere l'attuale primo ministro, Viktor Orban, e nella radio pubblica la situazione peggiora immediatamente. Ecco allora perché molti dei nostri giornalisti sono ex della radio pubblica. Conduttori, giornalisti, manager anche, e lo stesso direttore. Ed è anche per questo che qui a Club Radio non siamo proprio giovanissimi, perché ovviamente è un tipo di formato radio che richiede persone con esperienza. And not the young people, most of them, the listener, the music and sitting in front of the computer, not the radio. Ecco, quanta informazione, quanta musica? How much information, yeah, how much music? And the 22% of the content is music and the others just 80. 22% di musica e il resto è composto da parole e informazione. News. Voi vivete di pubblicità? Come vi finanziate? That's the most difficult problem because earlier period. Questo è proprio il nostro problema più grosso. Diciamo che fino al 2010, quando Viktor Orban è tornato al governo dopo gli anni del governo socialista, il nostro budget annuale era composto per un terzo dalla piccola pubblicità raccolta sul mercato, per un terzo dai sostenitori con le loro donazioni sotto forma di sponsorship e per l'altro terzo era invece pubblicità, diciamo, governativa, o meglio, pubblicità legata a iniziative economiche del governo, come per esempio le lotterie. Tutto questo fino al 2011. But the last year we are under the blockade. Quando ci siamo trovati vittime di un vero e proprio blocco da parte del governo dal quale non abbiamo ricevuto nulla. Il punto è che noi, da quando Orban ha vinto le elezioni, siamo finiti nella lista nera del governo. We are on the blacklist. and he didn't get any money. Quindi lei dice, quando Orban è tornato, perché Orban è il secondo governo al potere, c'è stata una vera e propria lista nera e voi vi siete trovati in quella lista. Yes, that was simple, because you know, and every listener in Italy. Sì, esattamente. Ed è stato facile fare pressione su di noi. Sono certo che anche in Italia conosciate bene la parola crisi. E ovviamente in una fase di crisi, che qui in Ungheria stiamo vivendo in maniera particolarmente dolorosa, le entrate pubblicitarie non fanno che scendere. Poi ti tagliano quella che, diciamo, arriva dal governo. E poi le aziende che sono sul mercato cominciano ad avere paura a sostenerti con la pubblicità, perché sanno che il governo non è contento di Club Radio, che non gradisce, e magari ti arriva una bella ispezione dal fisco, che in una fase come questa proprio non ci vuole. I don't pay money. I don't have to, shouldn't have to effort. L'Ungheria è un paese di 10 milioni di abitanti. Quanti ascoltatori avete? Hungary is a 10 million people country. Yes. How many listeners you have? Yes. We have 500,000 listeners. Noi abbiamo ogni giorno 500,000 ascoltatori e copriamo metà del paese. Un ungherese su 20. Forse a voi non sembrano tantissimi, ma stiamo parlando di un ungherese su 20 adulto, interessato alla politica e all'attualità. Sono ascoltatori molto importanti. Sono importanti per formare l'opinione pubblica, proprio come i temi che affrontiamo. E poi la qualità degli ospiti è tale da suscitare un dibattito pubblico che poi viene amplificato dal momento che mettiamo i nostri contenuti su internet e li diffondiamo attraverso la rete. We put the speech to internet. L'ultima fase di questa crisi è legata a un'asta per le frequenze. Before the tender, we had to pay for the license. Prima della nuova asta imposta dal governo, dovevamo pagare per la licenza delle frequenze di Club Radio sul territorio ungherese un canone d'affitto di 22 milioni di fiorini, circa 90.000 euro. Poi, con la nuova asta organizzata dalla NMHH, la potente autorità governativa ungherese che controlla il mercato delle frequenze, il tetto minimo è stato fissato a 55 milioni di fiorini, quindi più del doppio. Tutto questo nel pieno della crisi dell'editoria e in un momento in cui l'intero paese fa una grande fatica ad andare avanti. Ma non finisce qui. Noi facciamo la nostra offerta e come altri la fissiamo al minimo richiesto di 55 milioni di fiorini, cui tutti si attengono, tutti meno l'editore, che fa capo a Wiener, praticamente sconosciuto e di cui si sa solamente che fa capo a una persona che era assistente in una piccola radio locale. Insomma, queste sono le circostanze in cui il governo a dicembre annuncia che la più importante radio di opposizione nel panorama informativo ungherese resterà presto senza voce. Quell'asta era fatta apposta per farci perdere. Pensate che oltre all'offerta economica era previsto un sistema a punti che favoriva smaccatamente le radio musicali, ma soprattutto penalizzando il contenuto informativo delle parole. Noi che facciamo notizie, dibattiti, che raccogliamo fatti e opinioni, ci siamo trovati penalizzati anche solo rispetto a chi, in quello stesso spazio, trasmette musica qualsiasi. La verità è che hanno voluto e stanno provando a imbavagliare la nostra voce. Stanno provando a togliere dalla scena tutto quanto non sia in linea con quello che afferma l'attuale maggioranza di governo. Il nostro problema è che parliamo di politica, parliamo di cronaca, della città come dei libri, parliamo di legge e di diritti umani, di quello che accade nel paese e fuori dal nostro paese. Ancora oggi in Ungheria 500,000 persone ascoltano ogni giorno la voce di Club Radio e ora rischiano di perdere quello che per loro e chi lavora alla radio o ci ascolta lo sa bene. È soprattutto la voce di un vero amico. Because this radio is his or her friend. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.